versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori della 24, siamo in diretta qui dagli studi di Milano, alle 16.35 e 42 secondi. Oscar Giannino vi saluta, vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Per telefonare io vi direi che vi conviene prima ascoltare l'ospite che vi presento tra poco, perché parliamo delle retribuzioni dei dipendenti del Parlamento. Sapete che dallo scorso aprile in tutta la pubblica amministrazione, con un provvedimento del governo, è entrato in vigore il tetto retributivo per i manager e i funzionari di grado elevato della pubblica amministrazione, che è in 240.000 euro lordi annui massimi. Allora, in questi giorni, dopo mesi e mesi di proteste sindacali, ci sono 21 sigle sindacali tra Camera e Senato, vi dico solo questo, siamo alla ratifica che viene presentata come ratifica del tetto retributivo della pubblica amministrazione anche a Camera e Senato. Però vedremo in questa puntata, io inizio a sorridere, che le cose stanno così, ma più che altro non stanno così. E allora volevamo spiegarvi bene in che cosa consiste questo accordo, che non è il recepimento dell'accordo che vale per tutti i dipendenti e manager della pubblica amministrazione. E quindi la domanda che poi vi faccio è: cosa ne pensate del fatto che poi i dipendenti di Camera e Senato devono fare eccezione? Però prima ovviamente dovete ascoltare i particolari di questo accordo. Prima di presentarvi l'ospite, lasciatemi dire solo una cosa, perché molti ieri hanno anche scritto molti messaggi dicendo: ma come sull'articolo 18, ma come sarebbe a dire, sei così minimalista, ma non ce lo aspettavamo. Il giorno dopo la direzione del PD di ieri sera, che ha visto Renzi mettere in enorme difficoltà dal mio punto di vista i suoi oppositori, che hanno fatto una figura un po' barbina, D'Alema, Bersani e così via, con 20 che hanno votato no, io torno a dirvi che da quello che ho capito io, al netto dell'operazione politica di Renzi all'interno del suo partito, le cose stanno così. E chi non ci credesse, prende il Corriere della Sera, legge il pezzo di Lorenzo Salvia, collega informatissimo, e troverà che è così. Se si fa in Parlamento la delega e il decreto delegato come ieri Renzi l'ha spiegata, tutti coloro che oggi hanno l'articolo 18, cioè i dipendenti a tempo indeterminato sopra la soglia dei 15 dipendenti nelle aziende, lo mantengono, sottolineo, lo mantengono come è oggi, lo mantengono perché con la riforma Fornero di 2 anni fa il reintegro giudiziale era rimasto in concorrenza con l'indennizzo per licenziamenti economici e naturalmente sempre per quelli discriminanti. Ora Renzi dice, per chi ce l'ha, che si mantiene il reintegro giudiziale per i discriminanti e si aggiungono i disciplinari. Allora, per i disciplinari, dice Renzi, verrà tipizzato in Parlamento, come prima non avveniva, che cosa li individuerà in maniera tale da rendere più chiaro al magistrato l'applicazione meno discrezionale. Questo significa, come vi spiega oggi Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera, che anche gran parte dei licenziamenti individuali economici che prima erano messi in indennizzo finiranno in tribunale dicendo sono discriminanti. La differenza è che se quindi chi ce l'ha lo mantiene uguale, si estende a tutti gli altri. E quindi da questo punto di vista Renzi, tutti quelli che non ce l'avevano, cioè sotto i 15 dipendenti, per i contratti a tempo e così via, quindi da questo punto di vista, perdonatemi, io tutta questa guerra all'interno del PD, come se fosse la destra, la Thatcher e così via, non la capisco, perché è un simbolo. Ma se andate a vedere il contenuto, non si tratta di abrogare, qua si tratta di estendere. Per il resto resta così com'è, anzi ripeto, ci saranno meno conciliazioni di prima e di nuovo più tentativi di andare in giudizio per licenziamenti economici. Poi se mi sbaglio vediamo più avanti, ma andiamo al fatto del giorno, le retribuzioni di Camera e Senato. È con noi un collega che stamattina ha anticipato con il suo articolo i contenuti e i paradossi di questa decisione di Camera e Senato. Tra l'altro stamattina al Consiglio di Presidenza, all'Ufficio di Presidenza della Camera, è stato ratificato, perché il Presidente della Camera Boldrini e il Presidente del Senato Grasso molto si sono spesi dicendo: ma noi siamo in prima fila per adottare il taglio delle retribuzioni anche ai funzionari e dipendenti di Camera e Senato. Stamattina all'Ufficio di Presidenza della Camera la misura è passata con l'astensione di tre componenti dell'ufficio di presidenza che appartengono al Movimento 5 Stelle, con l'astensione del rappresentante della Lega Davide Caparini e con l'astensione del questore che appartiene a Scelta Civica Stefano D'Ambrosio. I tre partiti hanno motivato diversamente la loro astensione, cioè il fatto di non aver votato a favore della decisione sostenuta da presidente Boldrini e al Senato da Grasso. Ma vediamo adesso il collega che ne ha scritto stamattina, ne ha scritto sul Messaggero, e con noi Diodato Pirone, giornalista del Messaggero. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Diodato. Buon pomeriggio a tutti. Allora, in che cosa consiste davvero questo accordo rispetto al tetto che vale per tutti quelli della PA a 240.000 euro lordi da quest'anno? Allora, la notizia è che il tetto di fatto non c'è. Ah, ecco. Nel senso che in realtà le notizie sono due. La prima è questa: il tetto dei 240.000 euro verrà raggiunto gradualmente in tre anni, partendo dal primo gennaio del 2015. Quindi al 2018. Nel 2018, ma non comprenderà alcune voci come le indennità e come diciamo i riflessi sulla busta paga dei versamenti contributivi. Quindi in sintesi e in sostanza, mentre per tutti gli altri si è applicato da subito, per loro ci sono 4 anni e soprattutto non fa 240.000 euro lordi. Ma fa di più, sì, certo. Questo tetto in particolare riguarderà i consiglieri parlamentari, perché sono la categoria fra le sei nelle quali sono suddivisi i circa 2.200 dipendenti di Camera e Senato, sono la categoria a maggior valore aggiunto e quindi quelli che vengono pagati meglio. Nel caso specifico ci sono circa 90 consiglieri parlamentari alla Camera che già prendono molto più di 240.000 euro. Quindi questi signori scenderanno gradualmente fino al 1 gennaio 2018 verso i 240, ma in realtà lo supereranno. Ah, ecco. C'è poi il caso del segretario della Camera e dei due vice, che hanno una indennità notevole, se non ricordo male fra i 60 e i 70.000 euro annui, che manterranno. Quindi nella sostanza il segretario della Camera arriverà a prendere all'incirca 360.000 euro contro gli attuali circa 480.000. Quindi il taglio c'è, non è che non ci sia, ma è molto graduale. È molto graduale, e comunque, come scrivi, quest'anno tra 4 anni il segretario generale della Camera continua a prendere 120.000 euro più del capo dello Stato. Non c'è dubbio, più del capo dello Stato, più del capo della Polizia, più del direttore dell'Agenzia delle Entrate, cioè delle figure apicali molto importanti, ed è un trattamento che francamente lascia perplessi. Devo anche dire, per onestà intellettuale, che l'operazione è molto complessa. Intanto diciamo, si comincia a prevedere, a lavorare sull'unificazione delle due burocrazie, certo. Quindi dal Senato, e questo è un fatto molto importante, perché insomma, diciamo, si comincia a lavorare su una ristrutturazione di quella che è una delle aziende più importanti del paese, se non altro come produzione di valore aggiunto legislativo o giuridico, e soprattutto poi vengono abbassati complessivamente, sia pure in modo molto graduale, sia pure in modo diciamo così non perfettamente diciamo con i guanti gialli, utilizzando molti guanti gialli, circa 1.000 stipendi su 2.200. Quindi scattano una serie di tetti anche per le categorie che non sono i consiglieri parlamentari e il segretario generale, che sono quelli più alti. Per cui, ecco, stamattina noi abbiamo titolato sul caso particolare, quello del barbiere. Ci sono alcuni barbieri che sono, come dire, la professionalità, diciamo, più importante, ma più semplice, che è alla Camera, che attualmente possono arrivare ad un massimo, mi pare, di 136.000 euro, e scenderanno gradualmente in 4 anni a 99.000 più indennità. Secondo me 99.000 più indennità, un qualunque barbiere italiano direbbe: ma siamo matti, magari li dessero a me. Allora, la domanda a questo punto, dato, rispiegando ai nostri ascoltatori: primo, non vale per i funzionari dipendenti del Parlamento il fatto che la quota scatta subito; secondo, è molto graduale; terzo, non farà 240.000 euro lordi, ma, come avrete visto, fino a 120.000 in più, perché i contributi e le indennità non fanno parte del calcolo e quindi si mantengono. Come mai, secondo te, dato, da cronista parlamentare abbastanza navigato, ecco, mi permetti, non voglio dire vecchio perché non lo sei, ma insomma uno che ha passato parecchi anni a Camera e Senato, come mai alla fine la vera eccezione di tutta l'isola, l'enorme arcipelago pubblico italiano, i funzionari dipendenti di Camera e Senato con i loro sindacati sono riusciti a stare alla larga, a essere l'eccezione unica. Cioè, da che cosa si deve questa faccenda? Allora, diciamo giuridicamente, come tutti sappiamo, perché Camera e Senato sono sottoposti ad una forma giuridica particolare, la diachia, per cui praticamente sono autonomi da un punto di vista finanziario e non solo finanziario da tutti gli altri organismi pubblici. E sostanzialmente, quindi non sono per esempio sottoposti al regime di controlli preventivi e successivi della Corte dei Conti, per dirne un'altra, ecco, c'è un regime speciale anche nei controlli dei conti. In teoria il Tesoro dovrebbe pagare a piedi lista secondo tutto quello che loro ho capito, spero. Però paghiamo noi, è chiaro che non è così, è chiaro che lì si è determinata nel corso degli anni una legge non scritta per cui fra politica ed alta burocrazia parlamentare c'è stato uno scambio. Oh, aspetta, ti fermo qua perché adesso abbiamo 60 secondi di informazioni stradali. Telefonate per dirci che cosa pensate di questa bella eccezione per i funzionari, dirigenti e dipendenti. Come vedete anche gli gradi intermedi e tecnici hanno stipendi da paura, che riescono a strappare questa concessione, che i presidenti di Camera e Senato sventolano come l'allineamento, che non è un allineamento. Quindi telefonateci per dirci come la pensate. Però su questo tema, su cui ho interrotto Diodato Pirone, lo scambio tra partiti e dirigenti e funzionari e sindacalisti parlamentari, questo è il punto su cui interrogarsi, perché è una commissione impropria e anche secondo me a questo si deve che storicamente l'evoluzione delle retribuzioni là dentro sia stata un'eccezione assoluta, ma non solo rispetto al mondo privato, rispetto al resto anche della pubblica amministrazione italiana. Questo è il punto. Mi stiamo parlando di questa decisione che alla fine Camera e Senato hanno assunto rispetto al tetto di 240.000 euro lordi in tutta la pubblica amministrazione già operativo, e invece la decisione sbandierata come un grande successo dai presidenti di Camera e Senato è in realtà molto diversa dal resto della pubblica amministrazione, perché ci sono 4 anni di graduale discesa delle retribuzioni e secondo comunque il tetto non è rispettato ma anche sforato per 120.000 euro, cioè del 50% per le figure apicali. È vero, era necessario una decisione che guardasse la complessa realtà di questi conti autonomi di Camera e Senato, che secondo me non hanno storicamente più ragione di essere autonomi dal resto della pubblica amministrazione, ma per quale cavolo di ragione i conti di Camera e Senato della stessa Corte Costituzionale devono essere esentati dal regime di responsabilità e controllo del resto della pubblica amministrazione? Per me non esiste questa cosa. Però detto questo, un assistente parlamentare fino a oggi di Camera e Senato, anzi della Camera, arrivava al massimo delle retribuzioni a 136.000 euro, che insomma non mi sembrano pochi. Un assistente parlamentare adesso sarà a 99.000 euro, non mi sembrano pochi neanche questi, a dire la verità. Ecco, quindi non stiamo parlando di cose. Certo, voi mi potreste dire, cari ascoltatori, ma per chi li guadagnava il taglio netto immediato, perché non vale per tutto il resto della pubblica amministrazione, scusate, come sarebbe a dire? Io quando ho letto che la CGIL, che è uno dei 21 sindacati, era anche lei contro i tagli, mi sono presi uno stranguglione. Mi dice: ma come, vi battete per quelli che hanno meno reddito, che non hanno garanzie sul posto di lavoro eccetera, e poi siete contrari all'allineamento dell'eccesso delle retribuzioni verso il basso di Camera e Senato? Ecco, sono le cose che io non capisco. Diodato, ti avevo interrotto, Diodato Pirone del Messaggero, che stamattina ha anticipato i termini di come funziona questo accordo disallineato, diceva prima: c'è storicamente una specie di trade-off, uno scambio tra i partiti e i politici in Parlamento, i funzionari, i dirigenti e chi li rappresenta, cioè... Non c'è dubbio, basta dare un'occhiata al bilancio della Camera e al bilancio del Senato per scoprire una cosa, a mio giudizio modestissimo, scandalosa, e cioè il caso delle pensioni. Se noi andiamo a vedere, per esempio, la Camera spende per le pensioni dei dipendenti 236 milioni di euro. Sapete quanti contributi incassa la Camera per i propri versamenti, come ogni datore di lavoro, e per i versamenti dei dipendenti? Circa 74 milioni. Cioè, lì siamo di fronte ad un caso... Quindi tradotto per chi sta a casa, i 170 milioni di differenza li mettiamo noi con la fiscalità generale? Non so se è chiaro, ogni anno. Ecco. Assolutamente, come pensioni, e sono tutte pensioni come minimo, partono da 5.000 euro al mese, come minimo. Quindi non è che sono pensioncine da niente. Praticamente per un euro versato scattano 4 euro di pensione. Non c'è categoria al mondo. E la cosa preoccupante, la cosa eticamente insostenibile è che siamo arrivati a questa situazione con la classe burocratica della Camera, che è di altissimo livello, che non poteva non essere a conoscenza che le regole previdenziali avrebbero determinato un disavanzo di questo genere. Quindi loro lo sapevano, quindi coscienziosamente hanno portato il bilancio della Camera in condizioni pietose, in condizioni eticamente insostenibili, oltre che economicamente, i numeri parlano da soli. Quindi noi abbiamo un problema di classe dirigente. Direi proprio di sì, e di connivenze consumate nei decenni e che si vedevano anche nelle carriere di alcuni dirigenti elevati di Camera e Senato. Parliamoci chiaro, perché poi nei consigli di presidenza, dove si decide, contano le maggioranze e contano i colori politici di chi ha fatto più carriera a Camera e Senato. Questa è la mia esperienza, lo dico da ex portavoce tanti anni fa di un partito politico. Allora, gli sms che arrivano da voi sono tutti unilateralmente scandalizzati. Daniela dice: vediamo se qualcuno farà delle impugnative. Non è escluso, perché i sindacati, molti di quei 21 sindacati, le hanno minacciate. Daniela, hai ragione a segnalare l'ipotesi, di cui naturalmente daremo conto. E molti ricordano che comunque anche i parlamentari italiani continuano a guadagnare di più, e avete ragione rispetto ai 4.000 euro al mese del parlamentare britannico e del parlamentare tedesco, e quelli francesi sono 3.000 e rotti. Ricordate che quando si fece la commissione per verificare in termini comparati le retribuzioni, all'epoca presieduta da Giovannini prima che facesse ministro, quando era presidente dell'Istat, Camera e Senato, non lo misero in condizione di avere numeri comparabili con quelli dei parlamenti degli altri paesi, e quindi la commissione dovette dire al governo: non siamo in condizione di dirlo quanto è il vero valore comparato. Tanto per essere chiari e ricordare un'altra cosa che abbiamo alle spalle, sentiamo alcuni dei nostri ascoltatori. Simone da Pesaro, prego. Simone, come la pensi? Buonasera, no, volevo dire che io non ce l'ho tanto con chi prende questi soldi, ce l'ho con chi glieli ha fatti avere. È una cosa indegna, è un paese dopato. Anche poi il discorso guadagnano più che altro incassano, perché anche la differenza della pensione versati, 70.000 euro, sarebbe bello andare a vedere a carte scoperte se vengono versati. Chi li versa, cosa guadagnano, cosa incassano? Anche 10 euro forse non sono in grado di incassare. Noi abbiamo una categoria sindacale fortissima, però i deboli sono tutti in difficoltà. I protetti restano ancora protetti, come hai visto. Questa è la cosa che mi scandalizza. Cioè, io mi aspetterei che le altre categorie delle organizzazioni confederali dicessero a chi lì per la CGIL, CISL e UIL rappresenta i parlamentari del Parlamento: ma con i nostri iscritti a milioni non possiamo tollerarla una cosa simile, datevi una regolata e spiegatevi ai vostri iscritti. Questo è quello che penso io. Sabrina da Bologna, come la pensa Sabrina? Guardi, io la penso esattamente come tutti. È una cosa che ci lascia indignati, perché a noi diciamo impiegati, dipendenti, piccoli lavoratori autonomi viene chiesto il sangue sempre in virtù del fatto che i diritti acquisiti, bisogna che questi diritti acquisiti cessino, perché questi privilegi alla fine vanno a discapito di tutti. Infatti, perché siamo noi a cambiare. Molti mi chiedono adesso: ricorda che i parlamentari 5 Stelle seguono lo stipendio. Lo ricordo senz'altro, non c'è nessun dubbio. Il problema è che però non riescono poi ad avere il peso decisivo rispetto a queste retribuzioni dei dipendenti di Camera e Senato. Una domanda che faccio ancora a Diodato Pierone: qualche settimana fa una rappresentante una funzionaria di Camera e Senato disse: ma quello di cui non vi rendete conto è che noi abbiamo un'altissima professionalità e quindi è giusto che costiamo come delle Porsche. Disse letteralmente così. Aveva ragione o aveva torto? Ma aveva torto. Cioè, è un modo Qui nessuno fa un discorso, diciamo, vogliamo usare il termine che usano tutti, populista. È evidente che lavori per una istituzione molto importante, strategica per il paese, devi lavorare bene, ci sono delle regole molto, molto serie, molto, molto importanti. Devo dire sempre per onestà intellettuale che i dipendenti della Camera in 10 anni sono passati da 1900 a 1493, quindi circa 500 persone in meno. Detto tutto questo, resta la cosa che vi abbiamo spiegato oggi. Grazie Lodato Pirone, ottimo cronista parlamentare, e rifletteteci a casa, continuano a chiedere i soldi a voi, continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.